Il tema di cui parlerò, come sapete, è alterità e paradosso in Kierkegaard. È un tema poco frequentato dalla critica, come sa chi conosce un po' la letteratura sull'argomento. E questo in effetti un po' è strano. È un po' strano perché fosse anche solo interpretabile in chiave solipsistica, dico, per questo stesso Kierkegaard porrebbe fortemente la domanda circa l'alterità. Sia per ragioni dunque di curiosità intellettuale, sia perché ritengo che il discorso sull'alterità in Kierkegaard abbia uno spessore teorico non indifferente, mi sono timidamente affacciato sul tema. Probabilmente sarà bene che io premetta alla lettura delle pagine di questa relazione i titoli che ho dato ai paragrafi, perché, come avrete modo di vedere, c'è dentro il discorso un'articolazione abbastanza nutrita che va fatta per capire i piani stessi di questo discorso. Quindi mi scuserete se di tanto in tanto interromperò il fluire della lettura attraverso la dizione del titolo del paragrafo. Ecco, il primo paragrafo credo che si possa utilmente intitolare Centralità del paradosso. Il paradosso gioca nel pensiero kierkegaardiano, come abbiamo ormai sentito da due giorni, un ruolo del tutto centrale. Anzi, esso si configura come il leitmotiv dell'intero itinerario del filosofo danese. Dai frammenti giovanili dei papyrer, attraverso molte delle opere della comunicazione indiretta e diretta, sino ai diari della piena maturità. E tuttavia, per la sua stessa natura di concetto negativo, concetto che è stato più volte illustrato nelle relazioni precedenti, il paradosso pone al pensiero un'aporia interna alla sua stessa configurazione. Tematizzabile in quanto concetto, esso diventa non tematizzabile in quanto connotato dalla impensabilità. Sintesi non mediata di contraddittori, il paradosso si presenta quindi d'amblè come elevato alla seconda potenza, come appeso a una sorta di trascendentalità, come il paradosso del paradosso, come metaparadosso tout court, in cui però, lungi dall'oltrepassarsi, esso compie se stesso, ossia esprime radicalmente la propria natura. Il paradosso del resto è sì categoria dialettica, come dice Kierkegaard, ma non è a sua volta dialettizzabile. Anzi, è l'espressione della negazione della dialettizzabilità del reale in chiave di mediazione razionale e perciò stesso dell'affermazione di quella dialettizzabilità in chiave di immediatezza esistenziale. È il termine primo e ultimo d'ogni riflessione radicale sull'esistenza e dunque principio in senso proprio. Di qui la necessità di scioglierne l'interna struttura nell'unico modo in cui un indicibile può essere detto, un impensabile può essere pensato, ossia rapportando il paradosso alle figure che di volta in volta ne attestano, come in una sorta di fenomenologia, l'immane presenza. E tuttavia c'è una figura del paradosso il cui modo di presentarsi mostra una irriducibile peculiarità rispetto alle altre. Questa figura è, a mio modo di vedere, proprio l'alterità. Infatti, mentre figure quali ad esempio Giobbe e Abramo obbediscono più fisiologicamente al ruolo di manifestazione del paradosso, l'alterità si presenta come figura concettuale e come tale aggiunge alla fenomenologicità del paradosso un ulteriore elemento di paradossalità. E anzi, un'analisi a tutto campo della complessità e dell'intreccio dei piani che essa prospetta evidenzia l'esistenza di un rapporto intrinseco tra alterità e paradosso. L'alterità può infatti dirsi forma del paradosso proprio in quanto essa si configura, come vedremo, si configura come sintesi non mediata di relazione e irrelatività. Volendo prescindere dagli scritti edificanti, giacché solo gli atti dell'amore meriterebbero, secondo me, una trattazione a sé stante, il discorso sull'alterità trova una propria significativa formulazione in taluni luoghi di quel diario che assai spesso la critica ha disatteso e che invece, lungi dal ridursi a mero valore documentario, rappresenta un'autentica miniera filosofica, una chiave ermeneutica imprescindibile per cogliere, anche in funzione esemplificatrice, nodi altrimenti difficilmente districabili. È dunque in tale contesto che questa analisi sarà svolta. Ora affrontiamo il problema dell'alterità facendo una distinzione degli aspetti attraverso i quali l'alterità si presenta nel contesto del diario. Certo, quello di alterità non è il lemma ricorrente nell'opera kierkegaardiana, e però lo sono i suoi derivati, altro uomo, insomma quello che nel danese di Kierkegaard si designa come l'andro, andre scritto. Per non dire poi che, a ben vedere, se alterità è tutto ciò che si prospetta come altro dal singolo, per analogia è anche ciò che si prospetta come altro dagli altri. In tal senso, se per il primo aspetto l'espressione più emblematica di alterità è la folla, ovvero ciò che Kierkegaard indifferentemente chiama anche pubblico, massa, per il secondo aspetto tale espressione è il singolo in quanto straordinario. Non è un caso che Kierkegaard usi al tempo stesso il termine eterogeneo per indicare appunto che la diversità tra il singolo e la folla dipende dall'essere il singolo di un altro genere. E però, se si adotta il criterio dell'analogia, come del resto gli stessi testi kierkegaardiani incoraggiano a fare, l'altro per antonomasia è Dio, colui nei cui confronti la differenza è chiamata da Kierkegaard eterogeneità qualitativa, colui rispetto a cui non può esservi rapporto che di incommensurabilità, colui dinanzi a cui l'uomo ha sempre torto, colui che è talmente altro da configurarsi come lo sconosciuto. Ora, quel che rende per così dire intrigante il discorso è che l'approccio kierkegaardiano al tema dell'alterità coinvolge dentro uno stesso plesso argomentativo, ovvero dentro una medesima vicenda esistenziale, tutte e tre le forme di alterità menzionate, al punto che l'intellezione di esse risulta improbabile e inadeguata se non la si riconduce contemporaneamente alle altre. E vediamo in che senso. In primo luogo, gli altri sono coloro con cui non ci si deve identificare, o anche soltanto cui non si deve somigliare se si vuole essere autenticamente se stessi, ossia se si vuol diventare singoli. In tal senso, in Kierkegaard, la relazione con l'altro contrassegna anzitutto il rapporto con quell'agglomerato sociale che obbedisce al criterio della quantità e che pertanto si configura come massa, pubblico, folla, appunto. In secondo luogo, gli altri sono gli eterogenei, rispetto alla omogeneità di chi segue i parametri quantitativi del numero, gli individui cioè usciti dalla massa e divenuti singoli attraverso l'esercizio di un rapporto con Dio. In terzo luogo, l'altro è questo Dio che, pur fornendomi di doti così straordinarie che nessun contemporaneo mi può tener testa, fa sì che al suo cospetto io non sia altro che angoscia, timore e tremore. Anzi, davanti a Dio io sono un nulla. Ora, l'implicazione reciproca di queste forme di alterità diverse risulta evidente non appena si consideri che l'alterità di volta in volta incarnata dal singolo e dalla folla è tale rispetto al termine cui si relaziona. Infatti, la folla è l'alterità del singolo, come il singolo è l'alterità della folla. Allo stesso modo, l'alterità incarnata da Dio è tale rispetto al singolo, come l'alterità del singolo rispetto alla folla è tale in funzione del rapporto teandrico. Ed è tutto fuorché un gioco di parole. Ma c'è di più. Quando entra in gioco il rapporto teandrico, e quindi il problema del diventar cristiani, la relazione tra il singolo e gli altri abbandona il carattere ancora tiepido e stemperato della dissimiglianza per acquisire lo spessore tragico della contrapposizione, di quella che Kierkegaard chiama collisione. Adesso entriamo di più nel merito della alterità, cercando di illustrarne il carattere intrinsecamente paradossale. E questo farò secondo tre piani, parlando prima dell'alterità della folla, poi dell'alterità del singolo e infine dell'alterità di Dio. E mettendo in evidenza, spero di riuscirci, come il paradosso giochi un ruolo non solo all'interno di ciascun piano, ma all'interno della struttura complessiva di questi piani, che è quella struttura che appunto è l'alterità come paradossalità in senso proprio. Cominciamo dall'alterità della folla. Il rapporto con gli altri si configura subito in modo paradossale. Basti dire che l'essere come gli altri e il cristianesimo stanno tra loro in relazione inversamente proporzionale. In continuità diretta con il gregge, il cristianesimo è impossibile, sentenzia Kierkegaard. In tal senso si può sostenere che è la collisione a fungere da nesso paradossale. Non a caso Kierkegaard si sofferma a evidenziare come la collisione venga introdotta proprio dal cristianesimo nell'atto in cui pone il concetto di spirito. Infatti, nel mondo dello spirito conta la qualità, ossia la differenza, che è appunto proprio quel criterio che il mondo del numero nega in favore della quantità. Ora, se l'appartenenza dell'uomo alla sfera dell'animalità traduce ipso facto in uno scontro, così lo chiama Kierkegaard, inevitabile, il rapporto con quel mondo dello spirito introdotto dal cristianesimo, ciò accade in quanto il cristianesimo esige la rinuncia alla mera mondanità. Il diventare cristiani, come è noto, è infatti prospettato da Kierkegaard come la decisione più tremenda per la vita di un uomo, poiché si tratta, attraverso la disperazione e lo scandalo, i due cerberi che sorvegliano l'ingresso del cristianesimo, di guadagnare la fede. E la fede si guadagna attraverso la rinuncia a questo mondo, in quanto il cristianesimo è la discordia col mondo. Insomma, diventare cristiano è vivere uccidendo l'uomo naturale, e quindi è, umanamente parlando, diventare infelici. È questa l'anima tragica della dialessi del cristianesimo. Essa è perentoriamente scandita dall'antifrasi. Il cristianesimo trasforma la morte nella vita, ma prima trasforma la vita nella morte. Per ciò stesso il cristianesimo è prospettato sì come un dono, ma in quanto è il più impervio degli obblighi, al punto che l'essere cristiano è, umanamente parlando, la miseria e la sciagura più grande. Sicché il rapporto con Dio non può assumere altra tonalità che la seguente: perché sei sofferente, per questo Dio ti ama. Ma reciprocamente, perché Dio ti ama, per questo ti tocca soffrire. Sicché il cristianesimo intanto è una lieta novella, in quanto il suo destinatario è l'uomo sofferente, e anzi la sofferenza è il distintivo del rapporto con Dio. Perciò, dato lo stato di peccato in cui versa l'uomo, tale che c'è opposizione fra Dio e l'uomo, a Dio non ci si avvicina che col cambiare se stessi e ancor più col mortificarsi, con l'abnegazione di sé. Ora è proprio la rinuncia alla sfera del mondano a essere prospettata da Kierkegaard come ciò che costituisce il maggior sacrificio, giacché si tratta di rinunciare a quel che all'uomo è più naturale e per ciò stesso ben più rassicurante e facile da realizzare. Non a caso, se l'essere come gli altri è rappresentato da Kierkegaard attraverso la metafora della nave in cui si viaggia a proprio agio, tranquilli e sicuri, è per significare che ciò accade proprio in quanto essa porta alla temporalità, non già all'eternità. Diventare cristiani, ovvero entrare nella dimensione dello spirito e della singolarità, non può dunque attuarsi né attraverso la mediazione e l'accomodamento, né seguendo l'omogeneità e l'assimilazione, giacché in tal caso si rientrerebbe in quella mondanità dalla quale proprio il cristianesimo esige che si esca. Insomma, tra cielo e mondo non c'è compromesso che tenga, out-out anche qui. O a chi si apre il mondo si chiude il cielo, o a chi si chiude il mondo il cielo si apre. Tocca ora a te scegliere. E se la scelta del diventare cristiani implica, viceversa, un atteggiamento di contrapposizione, di rottura nei confronti di quell'esistenza sprecata che finisce per essere, come dice Kierkegaard, una massa di scimmie, ciò assume per Kierkegaard una connotazione non meramente fenomenologica, ma etico-religiosa. E infatti, il volgersi contro la folla, ovvero contro quella che è definita come la più empia di tutte le categorie cristiane, viene prospettato come il dovere cristiano tout court. Lungi dal farsi garante di serietà morale, la folla, afferma Kierkegaard in buon anticipo sulle riflessioni heideggeriane circa il man, causa irresponsabilità e spregiudicatezza, in quanto se da un lato svigorisce la responsabilità per il singolo riducendolo a un frammento, dall'altro è nessuno, anonimo l'autore, anonimo il pubblico. Di contro, diventare singolo implica una responsabilità esercitata sia nei confronti di se stessi che nei confronti della folla. Dall'essere un singolo nessuno è escluso se non colui che esclude se stesso diventando folla. Adesso invece tratteremo dell'alterità. Faccio una premessa. Prego il professore Bischin di avere la compiacenza, se io sforassi di qualche minuto, di un intervallo. 5 minuti. Sì, spero di tanto. Perché ne va della lettura. Se si precipita tutto. 5-10 minuti non è un problema. Grazie. Se il livellamento che riduce tutti a essere numero o copie è omogeneità, la collisione col mondo, che è condizione, come abbiamo visto, del diventar cristiani, non può che assumere la forma dell'eterogeneità. E l'eterogeneità intanto è avvento della novità e del cambiamento, in quanto è anzitutto rottura della massificazione e della ripetitività. E tale rottura va letta come scandalon in senso proprio. Vero è che l'urto può sembrar mitigato dall'affermazione kierkegaardiana per cui il massimo grado di straordinarietà viene raggiunto da coloro che non si sentono mai tanto felici da potersi accomodare in questo mondo, al punto che, essendo viaggiatori in missione, essi hanno fretta di andarsene il più presto possibile. E però Kierkegaard si affretta a precisare che l'elemento di extraordinarietà introdotto dall'eterogeneità passa attraverso l'incomprensione e il maltrattamento che lo straordinario patisce da parte di chi segue i parametri del calcolo e del profitto. Anzi, si tratta di un urto che lo straordinario non può e non deve evitare. Affinché la fuga dal mondo assuma il significato di un'autentica rinunzia, occorre che lo straordinario ami intensamente gli uomini proprio nell'atto stesso in cui essi lo respingono, in parte con l'incomprensione, in parte con l'infamia. Ecco perché la legge della vita cristiana è formulata sì attraverso l'alternativa del fuggire in solitudine o del soffrire la persecuzione. E però quella vita assume un significato autenticamente cristiano allorché l'astenersi dal vivere come gli altri si traduce nell'assumere su di sé le conseguenze dell'urto provocato dal rapporto con gli altri. In proposito, Kierkegaard non potrebbe essere più esplicito. Dio, egli dice, vuole essere amato, ma per contrasto. Amare Dio deve significare che con ciò tu entri in collisione con gli uomini, ossia appunto con l'incomprensione e la persecuzione messe in atto da chi vive secondo i valori della quantità e del numero. L'intera struttura del rapporto con gli altri è quindi connotata dalla paradossalità. Per diventare singolo, ossia per conquistare il proprio centro e la propria autenticità, l'uomo deve farsi straordinario, deve cioè vincere l'ordinarietà, ovvero mettersi contro quel mondo che per comodità e convenienza ha scelto di adagiarsi sul conformismo più bieco. Qui il paradosso kierkegaardiano emerge nella sua forma più netta. In primo luogo, l'eccentricità è propriamente la condizione di chi deve risiedere presso l'altro di sé per affermare l'intero se stesso, di chi deve star fuori dal centro per poter guadagnare il suo centro. In secondo luogo, per essere altro dagli altri, l'uomo deve sottoporsi allo scontro con gli altri, deve cioè affermarli nell'atto in cui li nega, calarsi nella quantità per farne emergere la qualità. In terzo luogo, ad esigere lo scontro è proprio un Dio che si presenta come donatore irrelato e insieme come talmente relazionato al singolo che senza questi egli resterebbe detronizzato. A questo punto è d'obbligo allora trattare dell'alterità di Dio. Da questo punto di vista, l'alterità divina aggiunge paradossalità alla paradossalità. E ciò per due ordini di considerazioni. Anzitutto, la dialettica kierkegaardiana del dono. Se Dio dona con onnipotenza, ciò significa che egli dona ritraendosi da colui a cui dona. Altrimenti quel dono sarebbe proprio quello di un soggetto finito, per il quale il dono è tale nella misura in cui attesta la presenza del donatore e la conseguente dipendenza da questi del fruitore del dono. Viceversa, dal dono divino, in forza della irrelatività che comporta, discende l'indipendenza di colui che riceve il dono. Ma, va osservato, se Dio non può produrre l'indipendenza dell'uomo che ritraendosi dal proprio dono, ossia ponendo capo a una relazione di irrelatività, chi riceve l'indipendenza, ricevendola da una irrelatività, non ha alcun elemento che gli consenta di comprendere la provenienza del dono. Non possiede cioè alcuna traccia del donatore. Ne risulta che l'incomprensibilità dell'onnipotenza divina è il prezzo che la libertà è costretta a pagare per essere indipendenza. Non a caso Kierkegaard chiama paradosso l'assunto di Tertulliano per il quale si diventa anzitutto liberi solo con l'essere imprigionati a causa del cristianesimo. Tuttavia, la categoria del singolo, proprio in forza del martirio cui il singolo è sottoposto allorché entra in collisione con la folla, viene prospettata da Kierkegaard come il punto col quale e attraverso il quale Dio può venire in contatto con l'umanità. Togli questo punto e Dio è detronizzato. Con questa categoria sta e cade la causa del cristianesimo. E per converso, col singolo è stato reso possibile il rapportarsi a Dio. Ora, se nonostante l'incommensurabilità il rapporto teandrico è possibile, ciò significa che l'esito della incomprensibilità di Dio non è lo scetticismo, ciò che ridurrebbe il paradosso a un sofisma, annullandolo per l'avvento della mediazione razionale, ma la scommessa contenuta nel rischio dell'infinito, nel salto in quella dimensione della fede che intanto è una passione infinita in quanto consiste nello scegliere ciò che è oggettivamente incerto. E qui si aprono due considerazioni di fondo. Una, quella tanto ricorrente nella critica, per la quale Kierkegaard è considerato fondamentalmente un autore che corteggia molto il solipsismo, come ben si sa. E l'altra, quella per cui questa posizione solipsistica in realtà ha una matrice facilmente riconducibile al misticismo e al pietismo. Alla luce delle premesse fatte, io cercherò di far vedere come in fondo queste accuse vadano probabilmente un po' ridiscusse e ridimensionate. Secondo gli esiti cui il problema dell'alterità mette capo, la ricorrente accusa di solipsismo rivolta a Kierkegaard merita di essere più attentamente considerata. Vero è che Kierkegaard è esplicito nel sostenere che diventare spirito implica l'isolamento e che senza ascetica il cristianesimo è impossibile. E però lo spettro del solipsismo deve pur fare i conti con la radicale differenza che Kierkegaard pone tra il prossimo e la folla. Amare il prossimo è autoabnegazione, amare la folla è la via per ottenere vantaggi temporali e mondani di ogni genere. Da questo punto di vista, il prossimo va inteso come la negazione della folla, ovvero come la folla negata in quanto massa attraverso quella mortificazione di sé che consiste nella rinuncia ai criteri quantitativi della mondanità. Per converso, chi si tiene attaccato a questa vita non ama il prossimo e anzi non lo considera neppure esistente. Lungi quindi dall'essere negato, il prossimo va considerato come il punto d'arrivo del processo che, dalla collisione con la folla, conduce al rapporto con Dio. Tanto più che la condizione attraverso la quale è possibile amare il prossimo è rinvenuta da Kierkegaard nella sofferenza patita per la rinuncia alla mondanità, sicché l'amore per il prossimo è sì precluso, ma a chi vive in omogeneità col mondo, ed è invece dischiuso a chi instaura con questo stesso mondo un rapporto di radicale eterogeneità. Mettersi in rapporto con Dio significa sì rompere ogni rapporto con la folla, ma proprio per questo guadagnare il rapporto con quella dimensione sociale di spessore etico-religioso che è la comunità. E la comunità non è come il pubblico, la somma quantitativa o numerica degli elementi che la compongono, bensì quella somma assurta a livello di qualità grazie al suo essere costituita da singoli. Di qui l'implicazione reciproca che Kierkegaard pone fra l'amore per Dio e l'amore per il prossimo. Certo, la solitudine cui costantemente fa riferimento Kierkegaard a proposito dell'esperienza di fede è pur sempre configurata come isolamento, sia nell'universo giudaico che in quello cristiano. Basti dire per un verso che la prova, che è la categoria che meglio simboleggia il rapporto teandrico dal punto di vista dell'Antico Testamento, è prospettata come il luogo dell'incomprensione del mondo esterno, e ciò sia nell'esperienza iobica che in quella abramica. E per un altro verso, che il peccato, che è il nesso ancipite e paradossale del rapporto teandrico dal punto di vista del Nuovo Testamento, è definito come l'isolante assoluto. E però non va sottovalutato, che la nota comune di queste forme di isolamento è il riconducimento che Kierkegaard ne fa verso l'interiorizzazione. E anzi, lavorare in direzione dell'interiorizzazione è definito come il compito di chi vuol rendere testimonianza al cristianesimo autentico. Del resto, l'interiorizzazione non solo non è negatrice dell'alterità, ma anzi è a ben vedere la forma stessa della sua prima manifestazione. Non a caso l'io è prospettato da Kierkegaard come quel tal rapporto che anzitutto si rapporta a se stesso. Ora questo concetto, come è noto, trova il proprio emblematico sviluppo nella tesi della formazione della personalità come scelta di sé. Qui infatti Kierkegaard getta per così dire le basi del processo che dall'esteriorità conduce alla conquista dell'interiorità. Ma quel che qui merita di essere evidenziato è che tale dimensione viene significativamente sbozzata attraverso una secca denuncia dei limiti del misticismo. Io non ho più il senso dell'orario, allora se mi dite che non posso più continuare, ho ancora due cartelle. Lo dico prima. La posso? Grazie. Grazie della comprensione. È un dovere. No. È una cortesia che mi fa. Nella misura in cui si dispiega interamente in un rapporto avente come terminus a quo l'individuo e come terminus ad quem la personalità, la dialettica della scelta sembra chiusa in un circolo dal quale è bandito ogni rapporto di reale alterità, il che è anzi fortemente ribadito dalla prima forma della scelta di sé, quella che Kierkegaard denomina perfetto isolamento. Infatti, mentre mi scelgo, mi rapporto fuori della mia relazione con tutto il mondo. Se non che la scelta di sé consta anche di una seconda forma, il rapporto con il mondo circostante attraverso il rapporto con la propria situazione storica. Infatti, precisa Kierkegaard, scegliersi eticamente significa scegliersi concretamente come questo determinato individuo, come questo determinato prodotto di un mondo circostante determinato. Sicché, nel momento della scelta, nota Kierkegaard, l'individuo è nel più completo isolamento, perché si ritira da quel che gli è attorno. Eppure, nello stesso momento, è in assoluta continuità perché sceglie se stesso come prodotto. Ne consegue che per Kierkegaard la vera scelta concreta è quella con la quale io, nello stesso istante che mi scelgo fuori dal mondo, mi scelgo di ritorno nel mondo. Sicché l'io, mentre sceglie se stesso come prodotto, si può anche dire che produca se stesso. Come prodotto, egli soggiace alle forme della realtà e subisce il suo posto nel mondo. Come produttore, trasforma tutta la sua esteriorità in interiorità e sceglie egli stesso questo stesso posto che egli ha. La vera scelta è perciò contemporaneamente un chiudersi e un aprirsi, un isolarsi e un consociarsi. La verità della scelta non è dunque unilinearità, ma dialessi, in quanto è fatta risiedere da Kierkegaard nell'identità dell'isolamento e della continuità. Non a caso, chi si ferma al primo movimento compie una scelta astratta. E ciò viene ricondotto da Kierkegaard proprio al comportamento del mistico, il quale ritiene che amare Dio implichi disprezzare l'esistenza, dimenticando non solo che in tal modo egli compie un tradimento verso il mondo nel quale vive, un tradimento verso le persone alle quali è legato o con le quali egli avrebbe potuto entrare in relazione, ma anche che, disprezzando la realtà in cui Dio l'ha posto, egli disprezza lo stesso amore di Dio. Per Kierkegaard, il mistico coglie giustamente la nullità del finito rispetto a Dio, ma anziché sottolineare la nullità che gli deriva dal suo essere peccatore, si mostra sensibile piuttosto alla nullità del mondo e dell'esistenza. Dalla considerazione della realtà come vanità, discende per di più che l'esistenza è un ostacolo, la temporalità un nemico che deve essere vinto e la storia un'inutile fatica, sicché il movimento verso la realtà risulta inattuabile. È qui che emerge la superiorità della concezione etica della vita su quella mistica. E infatti Kierkegaard sottolinea come la concezione etica, per un verso, concepisca il tempo non come un nemico, ma come un luogo di battaglia. E quindi non come la miseria, bensì come la grandezza dello spirito finito. E per un altro verso concepisca la storia non come un'inutile fatica, ma come l'eterna dignità dell'uomo. E infatti l'uomo, se vuole, può dare continuità a questa storia, ossia trasformare la somma degli accadimenti in un risultato avente il sigillo della libertà. Da questo punto di vista, lungi dall'implicare una caduta verso la china del misticismo, il processo che conduce all'interiorità trova il proprio momento nevralgico precisamente nel contrasto con l'astratta esperienza del mistico. È del resto in forza di tale contrasto che l'etica può rivendicare il valore della scelta concreta, della scelta cioè che non astrae dall'esistenza né la fugge perché ne conosce la precarietà, ma che anzi scegliendola l'accetta come la condizione reale su cui edificare la dimensione dell'interiorità. Il ridimensionamento delle presunte curvature misticheggianti e solipsistiche, quale è prospettato da una complessiva considerazione del problema dell'alterità, consente infine, e così concludo, di restituire un'apertura politica alla ricorrente accusa di impoliticità rivolta al pensiero kierkegaardiano. Per non dire che proprio la ricostruzione qui condotta del problema dell'alterità può costituire un supporto non trascurabile nei confronti di quella stessa apertura. Certo, in quanto è la categoria dello spirito, del risveglio dello spirito, il singolo è prospettato da Kierkegaard come contrario quanto può essere alla politica. E infatti, Weltanschauung, punto di partenza e scopo finale della religione, vengono proclamati da Kierkegaard come totocelo diversi rispetto alla politica, poiché la politica comincia sulla terra per restare in terra, mentre la religione, che riceve il suo inizio dall'alto, vuole trasfigurare e poi sollevare la realtà terrestre fino al cielo. E tuttavia ciò non può non avere una ricaduta sul piano sociale. Nessuna politica, afferma Kierkegaard, ha potuto né può penetrare o realizzare l'eguaglianza degli uomini, in quanto questa implica l'eliminazione della mondanità, laddove l'unica possibile eguaglianza umana è quella non mondana che solo la religione può, con l'aiuto dell'eternità, realizzare. E però non si tratta tanto di alienarsi dal tempo, ma di considerare il tempo dal punto di vista della sua conclamata autosufficienza e insieme della sua sostanziale insufficienza. E ciò di cui il tempo ha bisogno, nel senso più profondo, è l'eternità. Il che è tanto più vero quanto più si constata che la disgrazia del nostro tempo è precisamente che esso è diventato solo il tempo, la temporalità, che nella sua impazienza non vuol sentire nulla dell'eternità. Da queste considerazioni, per un verso si comprende meglio in che senso il singolo sia per Kierkegaard la categoria cristiana decisiva, la categoria senza cui il panteismo, incarnato dalla legge del numero fondata sulla quantità e sulla temporalità, ha assolutamente vinto. Vittoria tanto più facilitata dalla estrema difficoltà con cui si diventa un singolo, con cui si accede cioè a quella categoria che non si può insegnare, perché essa è un potere, un'arte, un compito etico. Ma per un altro verso, proprio l'impegno che il diventar singolo comporta getta luce sul rapporto del singolo con la temporalità. Non si tratta infatti di occultarne misticamente la presenza, bensì di individuarne il ruolo precipuo, ridimensionata nell'arrogante presunzione d'essere essa stessa un assoluto, con la conseguente sordità nei confronti dell'Eterno. La temporalità va intesa come il grembo nel quale l'Eterno coltiva il proprio avvento e insieme come l'alveo nel quale l'individuo opera la propria scelta dell'infinito fino al martirio. Qui la sintesi paradossale di finito e infinito che il singolo incarna trova nell'altra sintesi paradossale di relazione e irrelatività una propria significativa specularità. Nell'atto in cui collide con la folla, il singolo recupera la dimensione della prossimità, guadagnando al tempo stesso il rapporto con Dio. Analogamente Dio, nell'atto in cui si rela dal finito, ne sancisce l'indipendenza e quella libertà di scelta grazie a cui il singolo può fare del rapporto con gli altri il crocevia della salvezza o della perdizione. Né finitismo, né misticismo, dunque, ma scelta paradossale. Esposto attraverso la problematica dell'alterità, il paradosso mostra non già la sembianza di un caput mortuum, di un idolum cui appendere le aporie per debolezza o incapacità di esercizio filosofico, bensì lo spessore di una sorta di idea regolativa che misura e consente la speculazione esistenziale proprio perché, lungi dal restar preda delle contraddizioni dell'esistenza, le rende comprensibili in virtù del fatto, anch'esso coerentemente paradossale, che la contraddizione costituisce la natura sua propria e per ciò stesso si configura contemporaneamente come governabile e inestinguibile. Grazie. Ringraziamo il professor Modica per l'importante contributo che ha dato alla chiarificazione di un problema molto complesso e per la finezza della sua analisi.